Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Milan, sono sempre Obi-Wan Kenobi, è caduta la linea, ci deve essere stata un'interferenza nella forza. Massimo, il finale lo fai tu, vai! Sta in fronte a te! Vai Massimo! Vai al Massimo! Giustizio! Vai Massimo, aspettiamo te! A te! Applausi! Grande, grande Massimo Giletti! Che bello è là! Il signor Giletti è lautamente pagato con i soldi dei contribuenti. Dovrebbe essere un arbitro imparziale, non lo è, è sceso in campo, si è messo la palla, diciamo, sotto al braccio e ha iniziato a giocare a pallone. A noi questa cosa non piace, i napoletani reagiscono. Noi con Giletti non abbiamo più da interloquire, abbiamo fatto una querela. Ho detto tutto, direbbe Totò. Aspettiamo la risposta del presidente della RAI. Finisce così a schifio tra Giletti e Massimo De Magistris, sindaco di Napoli. Querelato. E che dobbiamo fare? Cioè, che aveva detto Giletti all'Arena? Napoli è indecorosa, insomma se l'è presa con Napoli e arriva la querela. Non è bastato a Giletti andare a cantare in una radio Sole Mio in una maniera abbastanza imbarazzante, o forse è stato il modo imbarazzante in cui ha cantato che ha convinto De Magistris a dire qua bisogna querelare, basta, bisogna... No? Guardate queste note di Pavarotti, le abbiamo messe volutamente perché arrivino in tutto il mondo. Io voglio un po'... Sentiamo. Arrivino fino nell'estrema punta dell'Asia, dove il nostro Albertone Forchielli avrà un coccolone, un... Buongiorno Alberto, come stai? Cioè, lacrimoni! Visto! Ti mancano i tortellini e poi è fatta! Sì, manco tante cose. Con Lucianone Pavarotti, ti sei un po' emozionato, ti manca? Sempre. Ti manca l'Italia quando senti queste cose, dai? Sì, no, tante altre cose mi manca l'Italia. Vabbè. Mi manca più l'Italia che gli italiani. Eccola lì, Eccola subito la zampata di Alberto Forchielli. Vabbè, ti salutano tutti gli italiani in ascolto in questo momento, eh? Sì. Una battuta, la mia storia è una battuta del nostro Alberto Forchielli, che oggi è collegato da dove? Sono a Hong Kong. A Hong Kong, il nostro imprenditore. con lo sguardo sul mondo e sull'Italia. Come va anche il libro che hai scritto? No, il libro, stiamo alla terza di stampa. Benissimo. Trova lavoro subito, per trovare lavoro all'estero. Tutti i consigli per trovare lavoro all'estero. Insomma, sì, sono contento. Mi fa piacere. Dai, allora apriamo il Parlamento, perché c'è tanto da raccontare, anche un giallo clamoroso, un giallo clamoroso. Adesso vado a prendere un caffè. Mentre salutiamo il ministro Boschi, che offre il caffè, o meglio, va a prendere un caffè, noi l'aspettiamo. Giallo clamoroso lanciato dal PD-no Mineo, ma dopo ne parliamo, perché insomma, Mineo che dice... Ma con questi pizzini un po' strani, Renzi è succube di una donna potente e decisa. Ma insomma, vabbè, sono frasi un po'. No, Alberto, non ti vuoi scatenare su questo? No, aspetta, fermati, perché un po' temo. Cosa vuoi dire? No, nulla. Perché, no, per carità, no, nulla, non nulla, diciamo. Tanto che gira quella voce. Ma che voce, vedi? Quella lì. Ma quale è quella lì? Quale? Quella lì, della donna decisa. No. La donna decisa. No. Vabbè. Se anche fosse, chi se ne frega. Infatti. Se fossero quelli i problemi. Beh, oddio, no, se fosse succube, un po' per un presidente del consiglio, sì, un po' qualche problema ci può essere. Vabbè, ma aspetta. No, non è detto. Dai, parliamo d'altro, va, perché qua siamo a rischio, se si dicono cose che non vanno. Però, visto che sei lì, subito voglio un aggiornamento sul mio Mr. B e il mio Milan. Allora, ma che fine ha fatto sta storia? Ce lo compro? No, Mr. B i soldi non ce li ha e le banche non glieli danno. Adesso il suo dossier è finito in mano a dei ricchi cinesi che lo stanno guardando. Ovviamente, quindi lui è in mano a questi nuovi ricchi cinesi, imprenditori. Il problema è duplice. Primo, questi cinesi sono molto curiosi, però poi tra la curiosità e il muoversi passa un mare, fanno perdere un sacco di tempo. Secondo, con questa roba sulla corruzione, la gente sta molto bassa, credo che siano calate anche le vendite. Rari, Maserati, auto di lusso, cioè la gente non si lo fa notare, uno che compra il Milan si fa notare un bel po'. Quindi tempi cupi, anche per... Sì, sono pochi i cinesi. E poi tutti trovano che il prezzo sia molto elevato. Quello che invece mi sorprende, quelli della Fininvest sembrano averle perse al culo, perché sono venuti a Hong Kong 3-4 settimane fa, quindi hanno voglia di vendere che non sta nella pelle. No, cioè ci stai dicendo, perché... ma vendere che cosa? Il Milan o la Fininvest? Il Milan. No, quella della Fininvest. Sì. No, perché voglio dire, in questa situazione di incertezza, che questi facciano un viaggio, mi è sembrato, dico, ma che vengono fin qui, tanto qui le posso sapere anche per telefono. Cioè, questo mi ha un po'... Ti ha un po' colpito, ti ha un po' sorpreso a dire, evidentemente vogliono proprio vendere. Guarda, che B non avessi soldi lo sapevamo. Se finiva in mano ai cinesi, l'abbiamo detto, ridetto, i cinesi sono venuti, era una roba che si poteva anche prevedere ragionevolmente. Che quelli della Fininvest vengano qua, capito? È un po' deprimente. La storia che c'erano i soldi di Berlusconi dietro e compravano una bufala. La storia, quella storia lì che Berlusconi riciclava, quella è sempre stata una gran bufala, non è mai esistito. Vabbè, insomma, diciamo che stiamo a vedere, qui affacciati sulla terrazza per vedere che succede al mio Milan. Però intanto registri che quelli della Fininvest sono venuti lì forse per vendere. Allora, saluto anche tutti gli ascoltatori che mi scrivono: grande Forchielli, straordinario Forchielli. C'è chi mi dice che ho detto Massimo De Magistris, ho fatto questa unione invece di... volevo già fare la pace tra Luigi De Magistris e Massimo Giletti, non lo so. Comunque, caro Alberto, qui... mentre tu sei a Hong Kong, tutti i giornali parlano da giorni di questi scandali vaticani, almeno previsti scandali vaticani, nel senso che l'ultima è di Bertone, che oggi parla al Corriere e dice: ma quale attico, vivo in 290 metri quadri con tre suore, peraltro con tre suore, non da solo. Alberto, che notizia ti è giunta lì di questi scandali? Ma no, io ho un gran dubbio. Continuano a spuntare dei corvi. Ma non è che in Vaticano praticano l'uccellagione? Non lo so. Questa ciao qui, come si chiama? Non so. Ciauchi, Francesca Ciauchi. Ciauchi. Ciauchi, non sono un corvo, i corvi non sono presi. Non sarà una campionessa vaticana di uccellagione pure lei? No, non lo sappiamo e non voglio neppure saperlo. Non voglio neppure. Cioè, poi, insomma, voglio dire, ormai è presentabile. Cosa vogliamo dire di quelle papaline porporate commissionate a Dolce & Gabbana? Sì, a sto punto era meglio Nerone che suonava la lira piuttosto che i cardinali che smassavano degli euro. Dici. Ma insomma, però c'è anche chi dice: ma che scandalo è in fondo che l'uomo sia fallibile, che laddove ci sono i soldi si annida un po' di corruzione, di sperperi. Si è scoperto che il cardinal Pell ha speso 500.000 euro in 6 mesi, perché lui viaggia sempre in business class, anche se deve fare un Roma-Londra spende 1.200 euro, capisci? C'è la gente che va a prendere i voli, quelli da 10 euro, 1.200 euro. Ma è davvero uno scandalo? È cose che si sapevano già, insomma, no? Ma no, se uno che viaggia in business class non spende 500.000 euro in 6 mesi. Poi si è rifatto la vita in aereo. Sotto l'avello. 5.000 euro, insomma, altre cose così. Sì, quelle cose lì trovo che siano debolezze che non possono convivere con un mondo, col mondo che vuole proiettare giustamente Papa Francesco. Non è possibile che lui viva a Santa Marta, voglia stare coi poveri. Che deve essere una certa coerenza a livello della struttura. Comunque il cardinale Bertone dice che si è pagato la casa da solo con 300.000 euro, che io ho pensato, hai capito fare il cardinale con i risparmi di 300.000 euro? Beh, non si può. Si risparmia bene a fare il cardinale, 300.000. Non si può. Ma no, perché il Papa porta questo messaggio importante di queste enormi diseguaglianze. Questo mondo globale che sta creando questo divide tra i ricchi e i poveri, questa enorme massa di poveri che vivono assolutamente ai margini della società, ignorati, un messaggio molto importante. Non è possibile che non ci sia una coerenza all'interno, come dice giustamente il Papa, che sembra uscito da una registrazione. Se non facciamo vedere che siamo in grado di amministrare i nostri soldi, come possiamo pensare, proporsi di amministrare miliardi di anime? Io lo venderei a una banca e poi darei in outsourcing la gestione dei soldi del Vaticano. Tu venderesti lo yacht? Sì, cioè, questa notizia è arrivata a Hong Kong degli scandali in Vaticano, le spese eccetera? Se ne parla. C'è sulla stampa internazionale, come viene dipinto? Male, perché tutto questo mondo protestante, tutta la stampa anglosassone detesta il Vaticano, cioè la ragione per cui c'è il proliferare di queste chiese alternative tuttora adesso, perché la storia per cui ci fu lo scisma luterano qualche secolo fa è proprio per la ragione di questa centralità di Roma corrotta anche, no? Ossia, quindi ci sguazza, non ci sguazza, non ci sguazza un po'. Ci il mondo anglosassone e i cinesi sto frega. I cinesi, infatti, cioè, per loro non esiste niente di questo. Vabbè, sentite qui, a proposito di costi, di spese, sai che c'è la polemica sempre sui vitalizi, sui costi. Renzi che dice i governatori guadagnano più di me, i governatori delle regioni. Ieri li ha incontrati, magari parliamo anche di legge di stabilità, visto che la protesta sembra un pochino rientrata. Ma intanto c'è il solito Mario Capanna, mitico Mario Capanna, che, mamma mia ragazzi, difende il suo vitalizio. Perché discutiamo di queste che sono pippate, in ultima analisi sono pippate, gliel'ho dimostrato, incidono sul bilancio dello Stato praticamente per lo 0, ma per un pensionato che ne prende 400 non sono pippate, vedere uno come lei che ne prende più di 5.000. E beh, dove sta lo scandalo? Ma come dove sta lo scandalo? Quante ne piglia allora? Ma scusi, ma abbassiamole tutte, in un momento di crisi così, abbassiamole tutte, ha sentito Boeri? 50%. Bischerata. bischerata quella di Boeri, che vuole tagliare i vitalizi, ma non solo i vitalizi, le pensioni più alte. Può essere una soluzione, Alberto, tagliare le pensioni più alte, quelle che si sono presi i soldi con il vecchio sistema degli italiani, eh? Cioè, guarda che ti ascoltano molti pensionati, stai all'occhio. Non credo che sia una soluzione ai problemi economici del paese. Può essere un segnale, ma non credo che, no, non è che siano tantissimi soldi. Io magari un'impennata di rigore o qualcosa la vedrei anche su questo aspetto, però non pensiamo. Non è la soluzione. Distinguiamo, no. E allora qual è la soluzione? Per esempio, te lo chiede Luca. Luca chiede via SMS: cosa si dice nel mondo della nostra stratosferica ripresa economica? No, ma non esiste. Non ne parlano. Siamo in situazione di. Siamo sotto coma controllato, non diamo problemi. I tassi di interesse sono bassi, le previsioni sono che i tassi rimarranno bassi per molti, molti anni. Per cui l'Italia è uscita dalla sfera dell'allarme rosso. Ci tengono così buoni. Sotto coma controllato, sì, non è male. Sì. E non saltiamo, ormai che abbiamo i tassi negativi, dove ci andiamo? Cresceremo, non faremo granché, però non diamo fastidio a nessuno. Poi nel frattempo il mondo cresce, tra 10 anni siamo una scureggiata. Ecco, per dire, vabbè, ma e questa legge di stabilità non ne vedi degli aspetti positivi, per esempio aver tolto la tassa sulla casa? No, ma no, non serve granché. Se in questo paese mancano i servizi primari, cioè cosa vuoi stare a togliere? Che poi la prossima manovra la devo rimettere, capito? Sono una specie di voto di scambio. Non mi piace. Guarda, in teoria mi fanno un gran favore perché sono a casa di lusso, pago un sacco di soldi. Ma tu mi sa che la paghi, No, la casa di lusso rimane. Vabbè, ma anche quando sembrava che non la pagasse, non me ne frega niente, perché tanto tra 6 mesi la prima nuova la rimettono, capito? Ossia, sono riduzioni di facciata che in realtà sono delle grandi inculate. Ecco. Giusto. Questa è la verità. Giusto. Riduzione di facciata per il contribuente graniculato. Uno dovrebbe veramente incidere sui costi, ma ormai i veri costi sono gli stipendi e le pensioni, perché gli interessi appunto. Ho capito, bisognerebbe ridurre il personale delle pubbliche amministrazioni, ma c'è la rivoluzione. O ridurre le pensioni, gran parte della spesa pubblica, sì, le pensioni, quelli che sono andati in pensione con sistemi non reggono più adesso, no? Sì, adesso non sono un esperto pensionistico, ma non so quanto serva e non so politicamente se tenga, nessuno può reggere. Se uno che fa una cosa del genere vuol dire che va a casa. Cioè, politicamente la fai, sì. E vai a casa. Sì. Politicamente sì. Sì. Perché ormai il tasso di parassitismo in Italia ha superato il 50%. Addirittura. Cioè, il voto, sì, io credo che sì. Tra pensionati e dipendenti pubblici collegati, familiari, siamo molti, 50%. Capito, credo, ma beh, dipendente pubblico è un parassita, no? Capito? Insomma, potrebbe lavorare di più. Capito? Il problema è che c'è un settore privato che lavora, delle imprese che lavora, c'è tutti gli autonomi che lavorano come delle bestie, poi c'è il pubblico che lavora molto meno. Noi continuiamo a tagliare i costi discrezionali, perché abbiamo i carabinieri senza macchine, gli ospedali senza medicine, le scuole senza computer, ormai i costi discrezionali sono quelli che sono. Vabbè, insomma, questa battaglia con le regioni. Ci arriviamo tra un attimo, aspetta che devo dare il traffico. Intanto salutiamo tutti i dipendenti pubblici all'ascolto, ovviamente un grande abbraccio anche ad Alberto Forchielli. Il traffico, rientriamo. A Milano mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Volevamo ringraziare la comunità europea perché ci ha dato adesso la possibilità di non mangiare illegalmente. Si poteva mangiare pure i bagarozzi, le moschette, le zanzarine e le formichine. Se noi mangiamo i bagarozzi con 420 euro di pensione, voglio a mangiare bagarozzi. Dipendente operaio che truffa va licenziato, invece il politico va bene, che non lavora, è truffa e secondo me va trucidato. E io dovrei lavorare 12 ore al giorno per poter vivere e la domenica andare a messa e dare 2 euro in elemosina che dopo vanno a finire nel restauro dell'attico del cardinal Bertone. Ma andate a camminare! Tronca, tronca, tronca, leon, leon, leon, la nuova armata Tronca Leone di Roma. Ti piace Albertone il fatto che abbiamo mandato il prefetto di Milano a insegnare ai romani come si governa una città? Il prefetto Tronca! Sarebbero da fare mille gag. Tronca si presterebbe a mille gag, però in effetti no, questa classe dei prefetti sta emergendo con la sua dignità, cioè, alla fine vedi, ci rifugiamo lì. Ma ti chiedono anche chi sarà il prossimo sindaco di Roma, cioè, c'è un ascoltatore che mi chiede, chiedi a Forchelli chi sarà il sindaco di Roma, che dice, ma che gli frega a Forchelli chi sarà? No, non ne ho idea. No, non conosco più i rai. Non so, troppo vecchio ormai. Troppo vecchio, vabbè. Vabbè, ma cosa ti hai visto sulle regioni, no? Da Hong Kong, cosa hai capito di questo scontro tra regioni e Renzi? Renzi dice guadagnano più di me i governatori, un po' piccato. No, ma quello è un atteggiamento populistico, e vabbè, capito. Perché purtroppo il primo ministro guadagna pochissimo, non so perché, no? Per ragioni, lui guadagna poco come stipendio. Ma voglio dire, per le responsabilità che hanno, i governatori potrebbero anche guadagnare di più. Il problema non è quanto guadagnano loro, il problema è che questi, l'Italia ha il 7% di spese sanitarie sul PIL, sì. L'America ha il 17%, noi però viviamo 4 anni più degli americani. Ah, quindi in America spendono molto di più. Molto di più. La sanità non è male, è uno dei punti meno oscuri. È uno dei punti di cui ci possiamo anche vantare quando andiamo fuori. Come eccellenza, ormai, forse oscuri come spese, un sì. Po' sì, però oscuri come no, corruzione. Sì, è il 7% del PIL, sai, corruzione tutto è corrotto, però la sua efficacia ce l'ha. Costa poco e rende, perché si misura con la lunghezza della vita, rende. Ovviamente adesso ci sono i nuovi farmaci, sono molto costosi, perché sono tutti di derivazione biotecnologica, sono molto costosi. La popolazione che invecchia richiede sempre di più. Sì. È inutile che stiamo a tagliare sulle medicine, capito? Senza incidere sulla struttura. Perché io sono molto io sono molto dalla parte della regione, di un Chiamparino, di un Maroni, capito? È inutile che state qui a... Soprattutto perché tra le regioni c'è grande disparità. Io sulla sanità in Piemonte e Lombardia non è che tutto sommato c'è di peggio in Italia. Però come al solito devono tagliare sui beni. Quindi, capito, tra un po' avremo centinaia di migliaia di dipendenti pubblici che non hanno i soldi e gli strumenti per lavorare. Questa è la cosa più assurda. No, è chiaro, ma è chiara questa tua analisi. Tra l'altro, ad aiutare la sanità ora tornerà anche Ignazio Marino, Ignazio Marino che da sindaco... Adesso, senti qui, non vuole più essere chiamato sindaco, ha detto, senti come vuole essere chiamato, è dato da Floris. Come la devo chiamare? Dottor Marino, non più sindaco. Forse prof. Prof è meglio. Prof Marino. Vabbè, è finita anche questa storia. Vabbè, Albertone, che ti devo dire? Ci sono tante persone sulle quali mi incuriosisce il tuo parere. Visto che c'è questa polemica su Tavecchio, questa non è arrivata sicuramente. Tavecchio che governa il calcio e che ce l'ha con gli ebreacci, gli omosessuali, le donne handicappate nel calcio, i negri, insomma, ce l'ha un po' con tutti. Sai, se esistesse il tribunale delle facce, Tavecchio prenderebbe l'ergastolo. Lombrosiana come. Sì, Lombrosiana, sì. Ma certo che questo è sintomatico del tipo di equilibri che esistono in quel mondo lì, capito? Sì. Per cui se tiri il Tavecchio è l'unico in grado di garantire gli equilibri di quel mondo lì, quindi traiamo nelle conclusioni. Sì, effettivamente non è un giudizio un po' impietoso su un mondo del calcio, anche noi ne parliamo da alcuni giorni, cioè il fatto che non si riesca a cambiare questa situazione vuol dire che è colui che tiene insieme tutti nel calcio, dovrebbe far riflettere un po' questa cosa. Beh,

E tra l'altro, insomma, è morto negli anni 30, quindi del Novecento, quindi poi immediatamente beato e immediatamente santo. Con quel che si legge adesso su quanto pagano per farsi fare i santi, certo vengono dei dubbi. Subito, subito. No. Prendono i soldi anche per le beatificazioni. Questa almeno è l'accusa che è nuova sul Vaticano. Dice che ci sono i conti con i versamenti in una certa Francisca Ana de non so che, 480.000 euro di qua, di là. Insomma, sembra il vecchio traffico delle indulgenze che abbiamo letto sui libri nel Medioevo. È vero. Ma Lutero, dove sei Lutero? Lutero, cioè dov'è un Lutero moderno? No, ma parleremo di questo perché avremo Emanuele Fittipaldi che ha scritto questo libro Avarizia che esce proprio oggi, sì. Edito da Feltrinelli sul Vaticano. Tra l'altro oggi parla il Cardinal Bertone sul Corriere della Sera. Ha detto, ma no, l'ho pagato io l'appartamento con i miei 300.000 euro di risparmi. Hai capito fare il cardinale? Quanto si risparmia? Io ho pensato che errore nella vita. Ma accidenti. Potevo Cardinal Giannino e Cardinal Milan. Cardinal Milan lo vedevo meglio. Però anch'io sui 300.000 euro di risparmi. Insomma, 300.000 euro di risparmi e poi risparmi, poi ci saranno. Insomma, adesso non intingiamo il biscotto nei veli. Detto questo, però, c'è veramente un po' di che sdegnarsi, perché sono anni e anni che poi ci raccontavano lo Ior è risanato e il nuovo pontefice è arrivato. Quanti nuovi pontefici sono arrivati che risanavano? Sempre nuovi pontefici che risanavano, ma vedo invece, che invece no, non risanano. Comunque, se volete parlare di questo, 800 24 00 24. Partiamo però, caro Oscar, dalla questione regioni-stato, che è la notizia del giorno, perché si sono incontrati, sembrava un epic scontro. Ma io, una domanda che ho per te, ammetto, sì. Ma tu hai capito questa radiosa schiarita che è venuta ieri in cosa consiste? No, io non l'ho capita, però, perché sembrava uno scontro all'orizzonte. Ci divertiamo, li aveva convocate così Renzi, ora ci divertiamo, non so, chiediamo a uno dei protagonisti, visto che era lì, è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Buongiorno Zaia e ben trovato. Buongiorno, buon lavoro a tutti. Vi siete divertiti? C'è stato uno scontro? No, lei no. Perché? No, io per niente, ma le dirò che divertirsi sulle disgrazie della gente non è una gran roba. Stiamo parlando della salute dei cittadini e devo dire che resto della mia idea. Non c'è assolutamente un aumento dello stanziamento, perché il Presidente del Consiglio giustamente dice abbiamo aumentato di 1 miliardo, quindi da 110 a 111 miliardi. Il fondo sanitario. Il fondo della sanità. Ricordiamo che l'accordo prevedeva 115, poi è stato ridotto a 113, oggi a 110. Però Zaia, è vero, vi dà 111, non 115, però arriva domani il decreto salva regioni, no, consiglio, no, scusi, dei ministri. Ci dà 1 miliardo in più, sì? Ma che non è in più perché avevamo altri accordi. E io che sono una persona seria ho programmato su altri budget la mia sanità. Ma il miliardo in più ci viene dato con competenze in più. Abbiamo quasi 2,5 miliardi di competenze in più. Quindi semplicemente utilizzando l'algebra, più 1 meno 2,5 vuol dire che siamo ancora a -1,5. Cioè abbiamo 1,5 miliardi in meno rispetto al budget di prima. Quindi insomma il suo giudizio sulla legge di stabilità è negativo, mi sembra di capire. Ma sul fronte della sanità sì, perché quando tu mi dici che devo occuparmi dei farmaci per l'epatite C che valgono 600 milioni di euro, dei nuovi LEA 900 milioni di euro, di nuovi farmaci innovativi oncologici altri 500 milioni di euro, del piano vaccini altri 300 milioni di euro, allora tu devi avere la correttezza di dire gli ho dato 1 miliardo in più ma devono fare attività per 2,5 miliardi in più. Ma quindi Zaia, ci faccia capire, la schiarita che appariva nelle queste tambureggiare dichiarazioni ieri sera si deve al regolamento dei conti interni al PD, cioè quelli più vicini a Renzi sono riallineati rispetto a Chiamparino ed è questo il riallineamento? Ma guardi, io ho l'impressione che comunque ci sia una chiamata della squadra rispetto a questi temi. E c'è da dire una cosa, che ormai questo cerimoniale di corte l'abbiamo già visto molte volte. Il vero tema qual è? Che ci sono delle regioni che sprecano. Guarda caso, sono le regioni che non si lamentano dei tagli. Vi siete accorti che chi si lamenta dei tagli è la Lombardia, il Veneto, tutte regioni che comunque hanno qualità nei loro bilanci della sanità. E allora, siccome non si ha il coraggio di fare un taglio dove si spreca, dove il pasto costa in ospedale costa 80 euro e non 6 euro e mezzo come a casa mia, prendi tutti, cicala e formiche e dice a tutti, vai, tagliamo dal 10%. Ma la Serracchiani stamattina in un'intervista dice, il presidente del Friuli, dice leader del PD per così dire, dice abbiamo fatto un grande passo avanti metodologico sui costi standard, la sua reazione? Ma è esattamente la promessa che si fa tutti gli anni. Guardi, se si applicassero i costi standard in questo paese, cioè se si obbligassero tutti a non sprecare, avremmo risparmio di circa 30 miliardi di euro. Non lo dico io, non lo dice l'ufficio studi della Lega, ma lo dicono autorevoli studiosi della materia. 30 miliardi, e saluto Giannino mi aiuterà, sono circa un terzo del debito, dell'interesse sul debito pubblico italiano. Cioè vuol dire che un terzo dell'interesse sul debito pubblico italiano è rappresentato da sprechi. Tra l'altro voglio anche dire che Deborah Serracchiani interviene, ma parlando della ragione statuto speciale, dove il budget della sanità è gestito. Ah, beh, sì, questo è un altro capitolo. Però, Zaia, lei ha capito anche se non è del suo partito la vicenda Chiamparino, cioè il rapporto Chiamparino-Renzi, visto che era lì, ci dica almeno com'è andata. Chiamparino, a mio avviso, è una persona per bene, si è comportato con correttezza nel rappresentare le istanze di tutte le regioni. Chiamparino ha contezza di quello che sta accadendo. Io vorrei che fosse chiaro che io ero lì al tavolo, per quel che mi riguarda io non ho fatto nessuna negoziazione rispetto al famoso decreto che erroneamente viene chiamato salva regioni. Nella mia regione non c'è nulla da salvare. Noi avevamo 7.000 fornitori della sanità da pagare, eravamo in ritardo. Il governo invece di lasciarci usare i nostri soldi che ha bloccati col patto di stabilità, avevamo 1,3 miliardi bloccati. Ve ne ha prestati. Sì, ma ci ha prestato i nostri soldi, ci ha prestato 1,4 miliardi a tasso di interesse, cioè si trattiene i nostri e non ci paga interessi e ci ha obbligato a utilizzare i nostri soldi pagando gli interessi. Sembra quasi un'assurdità, ma è così. Sì. Ci ha detto che legge dovevamo fare per fare questa operazione. Ricordiamo che eravamo in piena crisi con le aziende. Io ho avuto 150 imprenditori che si sono suicidati, quindi l'obiettivo era pagare i conti di tutti, nonostante il patto di stabilità. Abbiamo fatto la legge, non ce l'ha impugnata il governo, perché la legge ci hanno detto loro come farla e oggi ci dicono di fare il salva regioni. Sì. Hanno sbagliato a farci fare la legge. Questo provvedimento tecnicamente è andata così, non è il salva regioni, no, lo dobbiamo dire a chi è in ascolto, perché infatti la versione è che è questa, è esattamente quella che tutti i presidenti di regione hanno dovuto legittimamente e giustamente fare presente, cioè si è trattato, come sembrava all'inizio, di un comportamento, per così dire, di furbi, cioè hanno usato i soldi trasferiti dallo Stato per fare spesa corrente invece che per pagare. Sulle modalità di contabilizzare, la Ragioneria Generale e il MEF hanno dato all'inizio uno schema di contabilizzazione e poi dopo il governo ha detto no, questo non si può fare, classica storia italiana. Però perché glielo chiedevamo, perché oggi Chiamparino viene dato da Repubblica addirittura in uscita dal Partito Democratico, però capisco che politicamente non è Zaia il partito a cui lei guarda. Per quel che mi riguarda, Chiamparino, se resta a dirigere la conferenza dei presidenti di regione, ha il mio sostegno e penso che abbia il sostegno di molti altri. Perché oggi Maroni dice perché oggi Maroni al Corriere dice dovremmo guidarla o io o Zaia o Totti, cioè uno di centrodestra, la conferenza Stato-Regione. Guardi, questa è un'altra partita, ma i numeri ci dicono, conoscendo questi ragazzi che abbiamo, che è un po' difficile, per così dire, è schiacciante la maggioranza. E ovvio è che se ci fosse correttezza dovremmo dire che quando governava il centrodestra e aveva la maggioranza nella conferenza di regioni, proprio per un fatto di democrazia, lasciò la presidenza a Derrani, che rappresentava il centro-sinistra, che è stato peraltro un bravo presidente. Io ho due cose velocissime da chiedere. Intanto, quanto guadagna lei? Perché sa che Renzi e La Messa guadagnano molto più di me. Le piace? Noi guadagniamo. Un presidente di regione che ha fatto la serie di review come noi arriva a 8.000 euro al mese. Sono netti? Che chi le sta parlando non fa i rimborsi, non fa nulla. Abbiamo fatto tutte le attività che il governo non ha fatto in Parlamento. Da me c'è il blocco a due mandati per consiglieri, presidente e assessore. Abbiamo ridotto il numero di consiglieri, abbiamo eliminato i vitalizi. Se si fanno queste modifiche a livello nazionale, tutti i cittadini farebbero festa. Sì, però è più di Renzi, 8.000 euro mi risulta più del Premier. Ma non le piace questo discorso, come è stato impostato dal Presidente del Consiglio? Di mezzo c'è la salute dei cittadini. Ci sono regioni che sprecano, sono realtà nelle quali bisogna veramente intervenire. Se Renzi ha deciso di trattare le cicale come le formiche, ne prendiamo atto. Caro Oscar, qui insomma. Non lo so, a me ha colpito molto di tutta questa vicenda come i giornali inevitabilmente la politicizzano. La politicizzano perché c'è un evidente criterio di lettura interno al PD. Cioè, quando leggi il titolo di Repubblica di oggi in prima pagina, la sfida di Chiamparino al cesarismo del sorriso, si capisce che il riferimento non è tanto al merito, purtroppo, dico io, e di cui abbiamo parlato, cioè le cifre della sanità, chi spende meglio, chi spende peggio. C'è una sfida politica, interna sfida al PD, come è evidente, perché quando si dice poi Chiamparino, Emiliano, Rossi, candidati a segretari contro Renzi, si capisce che c'è un grande problema. E questo è un vero, forse una specie inaspettato del proseguo del governo Renzi, cioè come si vede a Roma e non solo più a Roma, in Sicilia, penso, non si parla della Sicilia, ma in Sicilia c'è un'enorme esplosione in corso, con la quarta giunta Crocetta e il sindaco del e il segretario del PD che dice degli assessori sono errori, ecco. C'è un enorme problema nel partito del Presidente del Consiglio e secondo me anche in questa cosa delle regioni conta e come. Una domanda, un'ultima domanda al volo. Siccome sui giornali sembra che però vi abbiano abbuonato buona parte dei tagli che alle regioni nello schema di legge stabilità consegnato in Parlamento invece erano presenti per 1,8 miliardi per la parificazione del bilancio al 2016. Adesso si parla di soli 500 milioni. Come stanno le cose? Le cose stanno che finché non le vediamo scritte ed approvate abbiamo ragione di dubitare. Ecco. Ti faccio un esempio, perché i cittadini bene che sappiano, questo è un governo che ha promesso la chiusura delle province. Le province esistono, sono più in forza di prima, addirittura i cittadini non eleggono più i propri rappresentanti all'interno delle province, ma c'è una grande novità che nessuno sa, che adesso il conto lo pagano le regioni. A me questa operazione illuminata del governo Renzi mi costa 40 milioni di euro all'anno, perché si sono trasferiti oneri direttamente dallo Stato alle regioni. Cioè, tutte queste operazioni porteranno molto probabilmente ad una piccola limatina alla pressione fiscale nazionale, ma affameranno i territori, perché poi non lo dico io che sono un rappresentante della Lega e qualcuno potrebbe dire ma è per partito preso, ma lo stanno dicendo tutti gli amministratori. L'ultima questione è questa: sa che il ministro della salute Lorenzin ha detto che è stato un errore dare la sanità alle regioni? Lei che pensa? Centralizzarla era meglio? No. Guardi, io sono stato ministro quando non ho mai fatto riflessioni di questo tipo, perché se mi trovavo nella condizione di farle operavo ed agivo, cioè facevo una proposta di provvedimento per dar seguito alla mia convinzione. Dire che è stato un errore e non avere il coraggio di togliere le competenze delle regioni vuol dire che non sei convinta che sia stato un errore. Non è convinta, così dice. E nel frattempo però basta levarmi un po' di soldi di volta in volta e alla fine... Ma non è che poi ci aumentate le tasse, Zaia? Cioè voi del Veneto, i ticket, non è che poi finisce così? State parlando con un presidente di regione che governa dal 2010... che è l'unica regione dove non si applica l'addizionale IRPEF, non ci sono ticket della sanità regionali. Questo è un fatto. È un fatto. No? In Veneto, ma il rischio c'è, secondo lei, state con questi conti? Ma sicuramente in qualche regione questo rischio c'è. Da me non si farà mai, però è altrettanto vero che i numeri sono numeri che possono portare qualche regione ad aumentare le tasse, questo è poco ma sicuro. E questo insomma alla fine ricade sui cittadini, ma magari non sarà così in Veneto, ma per chi abita in altre regioni sarà così. E naturalmente Renzi ti dirà, no, i ticket non sono imposte, quindi la mia linea è che non si aumentano le imposte locali è vinta, perché sono in cambio di un servizio, vabbè. Va bene. Però vorrei dirvi, perché qualcuno può dire, ma perché Zaia si preoccupa così tanto? Perché io ho 94.000 buste paga, delle quali 60.000 dirette nella sanità. Ho 68 ospedali e 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accessi in pronto soccorso. Cioè, non è che stiamo parlando di qualcosa che è uno svago per un presidente di regione. È il core business di una regione. E quanto alla competenza, do chiuso, vi ringrazio per questa ospitalità, vorrei ricordare che se qualcuno vuol togliere la competenza della regione, prima di tutto io non faccio il sindacalista della regione. Ma voglio dire una cosa, che vengano dai miei cittadini e facciano un referendum e chiedano in Veneti se vogliono essere curati dai Veneti oppure da qualche ministero di Roma. Di Roma. La risposta forse ci sarà. La ringraziamo intanto Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, grazie per essere stato con noi. Oscar, noi Dobbiamo andare in pubblicità qualche minuto, poi avremo Emiliano Fittipaldi con noi a parlare, insomma, di Vaticano. Eh sì, perché uno dei due libri che suscita tutta questa l'ha scritto lui, il collega dell'Espresso. Sì, tutte queste spese. Sì, tu non sei amante di questo gossip sulle spese? No, io sono amante. Quando si arriva a capire che si versano i soldi per le canonizzazioni, certo che hanno rilievo. Vedi che su questo. Sono molto amante di tutto il filone che riguarda la Ciao Qui, cioè chiunque... Vabbè, lì è proprio quello gossip. Il fatto pruriginoso dei giornalisti. Invece ma... i soldi. E i soldi lo iorra, quello è un altro paio di maniche. Tra pochi minuti. State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. E se c'è Milan e c'è Giannino, il mondo è più bellissimo. Vabbè, caro Oscar, ma l'hai sentito questo ascoltatore che ci ha mandato questa bella sigla? Vabbè, siamo qui alle 8:38 minuti. Caro Oscar, oggi parla il Cardinal Bertone. Beh, hai letto? Sì, ho visto che fa una specie di dichiarazione sui metri quadrati del... Sui metri quadrati, si precisa che non sono 700 ma 296. Sì, non volevo togliere 6 metri quadrati al Cardinal Bertone. Però dice lui che... Non c'è l'eco in casa perché condivide con altri. Condivide con altre suore e poi li ha spesi lui questi soldi, 300.000 euro dei suoi risparmi per questo attico, che per noi non è neanche un attico perché il terrazzo è in comune, non è suo. Insomma. Va bene. Non riesco a suscitare. Ripeto, mi sembra più grave continuare a vedere prove del fatto che lo IOR da anni e da papi oramai successivi, emeriti, viventi e scomparsi, continua a essere non in ordine. Mi sembra più grave vedere che si raccolgono i soldi a favore della canonizzazione, della santificazione di questo o di quello, perché questo almeno credevo fossero pratiche che dal Medioevo, dalla Riforma Luterana, fossero state un po' abbandonate. Invece pare che ancora funzioni così. Esistono i soldi raccolti dai promotori della causa e quindi questi o quelli del paese di appartenenza dei candidati alla beatificazione versano centinaia di migliaia di euro. Che per raccoglierli non c'è nulla di male, il problema è poi che ne fanno di questi soldi. Sì, ma che cosa vuol dire? Che si accelera la pratica perché ma si no, unge? Non lo ha. Vorrei mai immaginare che siamo a questo. Perché non lo so, vogliamo chiederlo a colui che ha scritto un libro che esce oggi proprio nella libreria, si intitola Avarizia come uno dei vizi capitali. Emiliano Fittipaldi, buongiorno, giornalista dell'Espresso. Buongiorno. Avarizia per Feltrinelli. Allora, queste pratiche, diceva Oscar Giannino, non sono del passato. No, lo scrivo nel libro, nel senso che sono pratiche che incredibilmente, ho fatto un'inchiesta, sono due paragrafi sulla Fabbrica dei Santi, così la chiamo, che andava molto in voga durante Giovanni Paolo II, che è un po' ridotta durante Paolo Benedetto XVI e adesso ha ripreso vigore. Ma dai documenti che ho studiato, e quella sulla Fabbrica dei Santi ce n'erano veramente a tonnellate, costa fare un santo, nel senso che non è una pratica gratuita come potremmo immaginare, nel senso che se i familiari, spesso diciamo il processo di canonizzazione inizia con la domanda fatta dai familiari del morto che si vuole beato santo, oppure dell'associazione cattolica a cui la diocesi a cui apparteneva il santo, e deve prendersi una specie di avvocato difensore che in qualche modo dimostri che questo soggetto ha fatto dei miracoli. Gli questo avvocati si chiama costano. Postulatore. Gli avvocati costano. Però costano. Era una cifre, battuta. Pazzesche, nel senso che io ho trovato delle canonizzazioni che sono costate 2, 3, 4, 500 mila euro. Spesso i postulatori più bravi sono due o tre e sono quelli diciamo che prendono, poi non vi dico il nome così andate a comprare il libro, che prendono gli onorari maggiori. È talmente incredibile, visto che sono quasi 3.000 i conti dei postulatori all'interno dello IOR, il Papa ha voluto un'inchiesta che io racconto su questi conti e hanno scoperto che moltissime volte, per esempio, delle suore spagnole o altre filippine, in realtà raccoglievano questi soldi dalle donazioni che venivano fatte e poi investivano questi soldi, non per la causa di canonizzazione, ma investimenti. Quindi già lo scandalo del costo e poi li utilizzavano per altri. Tant'è bello che tutti questi conti, in gran segreto, alla faccia della trasparenza di cui il Vaticano diciamo si vanta, gli ultimi 2 anni sono stati tutti bloccati. Ammetto però che diciamo, prima della mia inchiesta, e Francesco si era accorto, perché aveva visto queste carte, pubblico anche alcune lettere di alcuni cardinali che spiegano che i costi ormai sono fuori controllo, e ha messo un tabellario, cioè ha chiesto agli avvocati di attenersi a dei prezzi accettabili. Ci sono avvocati che fanno, che ne so, per cercare un miracolo spendono 200.000 euro, che poi devono andare lì in giro, tutto senza fatture. La vecchia anima del volterriano si fa venire si sta rivoltando. Ma cosa adesso prendiamo? No, ma è chiaro che cioè, apprezzo che il Papa ha messo il bollettario, però dovessi dire che questo mi sembra che risolva il problema, forse non dovrebbe funzionare così. Facilmente agibile. Però Fittipaldi, come risponde alle accuse che fanno alcuni, Giuliano Ferrara, ma anche altri, a dire, ma insomma sono documenti che provano che cosa? Che l'uomo è fallibile, che l'uomo, da dove ci sono i soldi, la carne è debole. Insomma, stiamo parlando della maggiore istituzione religiosa del mondo. Però no? Cose che già si sapevano, tra virgolette, senza documenti, no? Le proprietà del Vaticano. I documenti fanno la differenza. Viva i giornalisti che come Fittipaldi fanno ricerca, indagine, e a differenza di altri magari non si limitano semplicemente a beccare qualche imbeccata, perché io faccio una distinzione tra i due libri, però questa è un'opinione mia. Però viva chi cerca i documenti e ce li dà. No, scusa se sorridi. No, ringrazio Oscar. La cosa importante da sottolineare è questa. Allora, se io lavoro un anno, no, e scopro che la chiesa pauperistica, quella raccontata da Francesco, è quella che la propaganda vaticana, giustamente, dal loro punto di vista, ha raccontato in questi due anni, è molto lontana dal diventare realtà, e che ricchezze sterminate sono ancora lì dentro, che l'APSA gestisce ancora patrimoni miliardari senza utilizzarli per i più poveri, che l'obolo di San Pietro, che è una beneficenza che dovrebbe andare, e che tutti noi, tutti i fedeli danno tutti gli anni al Papa, viene invece utilizzata per investimenti all'estero, che il Bambin Gesù, che è un ospedale che viene pagato quasi integralmente dallo Stato Bertone. Italiano, non solo paga la ristrutturazione dell'attico a Bertone, io ho chiamato Bertone prima di pubblicare il libro ovviamente, e Bertone non ha detto. Lui dice non soldi... so, oggi dice al Corriere non lo sapevo, non lo sapevo. Ma l'ha detto anche a me, la sua insaputa, diciamo, il suo uomo di fiducia, Profiti, che invece a me ha confermato tutto nel libro, dice sì, io effettivamente questi 200.000 euro li ho dati dalla fondazione che dovrebbe aiutare la ricerca sulle malattie dei bambini malati, per il latte, ho dato questi 200.000 euro perché così poi questo appartamento sarebbe potuto essere utilizzato dalla fondazione a fini istituzionali, cioè, ovviamente. Ho capito, ma a fini istituzionali. Lascio a voi adesso, ogni commento. Ma adesso, scusa, come abbiamo giustamente il riso ministro della Repubblica che dicevano di avere le case a loro insaputa, io mi rifiuto di credere, ma non perché non può non sapere. Si tratta di casa dove vive lui, casa sua. E tre suore. Figurati se non sa da dove vengono i soldi per cosa. Ma dai, insomma, per favore. Che cosa emergerà, Fittipaldi, per concludere? Altre cose, perché oggi i giornali raccontano. Ci penserà di... Ferruccio De Bortoli. Lì, è appena entrato nella fondazione Bambino Gesù. È vero. Scopriremo qualcos'altro. Sì, c'è francamente tanto da raccontare. Si racconterà, racconto per esempio di Viganò, no? il moralizzatore che ha dato il via, il presunto moralizzatore che ha dato il via al primo Vatilix, ricorderete, poi fu cacciato, diciamo, da Ratzinger e dallo stesso Bertone, fu mandato come nunzio apostolico a Washington. Racconto delle storie di Viganò, delle eredità familiari, di soldi milionari che girano sul suo conto, anche delle risposte insomma piuttosto interessanti. Racconto come il Vaticano guadagna, incassa 60 milioni di euro l'anno vendendo benzina per esempio e vendendo tabacchi, e come lo fa? Lo fa con due piccoli negozietti che però sono duty free, nel senso che si paga molto di meno. Ci potrebbero andare solo i sacerdoti, ma ci ho vanno, scoperto da documenti Ernest Young che hanno dato 41.000 tessere ai romani da sempre a Roma, questo sì. Roma è una città grande come Frosinone, la cosa che fa arrabbiare è che l'erario perde tanti soldi, l'erario italiano, e che nessuno alla Guardia di Finanza ha avuto, lo sanno benissimo ovviamente, ha avuto l'idea di mettere una macchina lì e cercare di capire se si fa il nero di benzina, il nero di tabacchi, e chi può andare a comprare i vestiti che vengono venduti a decine di milioni l'anno, anche perché chiunque vive a Roma sa che non è che lo si fa sopra acquisti personali, ci si organizza per decine e decine di altre persone a fare gli acquisti di rischio, tanto per essere chiari. No, no, non c'è dubbio, l'aspetto più che lo diceva Oscar, l'aspetto che però nella mia inchiesta, ed è un'inchiesta personale questa sullo IOI, non c'entrano niente le carte, perché io non ho, diciamo, ho compulsato decine di fonti, adesso si parla soltanto di due presunte fonti, se uno legge il mio libro si accorge che sono di più. Almeno una decina di persone, anche all'esterno del Vaticano, fonti informative diciamo italiane. Ecco, la cosa che mi ha fatto più impressione è come ci siamo fatti un po' prendere tutti in giro dallo IOR, nel senso che si è parlato di una straordinaria pulizia, poi ho scoperto che ci sono almeno 100 laici, imprenditori, professionisti italiani, qualche politico, punto interrogativo, che ancora tiene i soldi lì dentro, tra cui sicuramente Angelo Proietti, che è il nome che faccio, che era, diciamo, la persona che aveva ricostruito, ristrutturato gratis la casa dove abitava Giulio Tremonti. E la cosa più incredibile è che l'autorità finanziaria di Banca Italia, che si chiama UIF, con cui il Vaticano aveva stretto un accordo, non sa nulla di tutto questo. Il Vaticano aveva promesso trasparenza non solo sui conti ancora dentro, ma anche su quelli che poi sono lasciati andare via in questi ultimi due anni, perché poi molti conti sono stati chiusi. Sì. La lista, no, dei presunti evasori era stata informalmente promessa e non è mai arrivata. Non penso che nelle prossime settimane Banca Italia potrebbe fare anche una scelta molto grave rispetto ai vecchi accordi. Speriamo. Intanto Emiliano Fittipaldi, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo, giornalista dell'Espresso, e da oggi è di fatto in libreria, perché ci sono state tante anticipazioni, ma no, è da oggi che... proprio che esce il libro oggi. Avarizia per Feltrinelli. Ce l'abbiamo fatta. No, perché qualche giorno fa si diceva me lo censureranno. No, per carità, è uscito ed è un bene. Censuriamo solo la copertina dell'album di Fedez, per dire le ridicolaggini italiane. Ti ha colpito il Ministero dello Sviluppo Economico. Ma come ci perdiamo tutto quello che avviene nella finanza vaticana, tra Banca Italia e Finanza, e censuriamo l'album di Fedez? Ma che Repubblica italiana è? Ma tu hai capito poi perché è una copertina in cui c'è Fedez che, vabbè, bisogna dirlo anche se a quest'ora vomita, e c'è un arcobaleno e c'è un carabiniere, credo, a cavallo dietro di lui. E perché questo per lo sviluppo economico è un marchio? Ma io solo fatto che cos'è, lo sviluppo... sovversivo? Che solo cos'è? Fatto che lo sviluppo economico esaminino le copertine degli album, CD, eccetera. Ma poi non ho capito ponendosi qual è il problema è che il problema è per l'ordine pubblico, addirittura per l'ordine perché pubblico, perché ci sono simboli istituzionali nel rampante a cavallo, e quindi che questa cosa, cioè, c'è un ufficio censura al MISE, al Ministero dell'Industria. Non lo so. Io sono senza parole, cioè, ecco. effettivamente sì. Caro Oscar, ci sono degli ascoltatori tipo Maria Lucia da Spoleto, ci chiama per dirci che vuole Maria canonizzare Lucia un santo, e noi adesso apriamo il bollettino postale. Esatto, secondo me noi Milan Giannino, se noi ci mandate 20% i soldi, decidiamo chi santo postulare. Non lo so, vediamo, facciamo il postulatore low cost. Cose da pazzi. Vabbè, Maria Lucia, ci perdoni. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Vorrei dire che anche io sono senza parole per questo. Tempo fa sono andata a far dire una messa per mia madre a settembre e mi sono sentita dire minimo 10 euro, sono rimasta veramente allibita perché non c'è più, diciamo, una offerta volontaria. Beh, ma anche su i matrimoni, cioè è chiaro che sono appaiono offerte volontarie, ma insomma in realtà c'è il prezzario, appunto. C'è un po' il prezzario. Minimo 10 euro, ricordiamoci, allora, ricordiamoci poi, cara ascoltatrice, che loro si beccano più di 1 miliardo di euro l'anno tramite l'8 per 1000 scritto con regole a loro esclusivo vantaggio, Alessandro. Perché poi. Però io qua posso spezzare una lancia nei confronti delle parrocchie, delle singole parrocchie. Io conosco il mio parroco, Don Davide, una persona veramente. Quando si è trovato a dover ristrutturare il tetto per 300.000 euro, non c'aveva i soldi, ha dovuto chiedere alle parrocchie di Milano che gli hanno finanziato, cioè, perché poi credo che tutto rimanga a livello centrale, ma poi a livello periferico le problematiche ci sono. Ma figurati se metto in discussione, no, quindi voglio dire, magari quei 10 euro chiesti dal sacerdote magari servono davvero per la messa. A maggior ragione forse non dirottare i fondi della Fondazione Bambin Gesù per rifare l'attico del Cardinal Bertone. uomini di chiesa dovrebbero sapere. Il pesce puzza sempre dalla trincea, testa. No? Nelle parrocchie, nelle cose, eccetera. Si mettessero non la mano sulla coscienza, non ce l'hanno la coscienza. Sono politici, ma no, non ce l'hanno, mi dispiace. Ma come si può immaginare? A me è capitato tante volte, adesso non voglio entrare in particolari di famiglia. Io mi sono tante volte posto il problema della differenza evidente che esiste in chi svolge alcune funzioni nella Chiesa rispetto a chi poi invece fa la pastorale, e mica solo missionaria in Africa o in Sud America o nel barrio stato cui viene il Papa Francesco, ma anche in tante parti d'Italia dove è veramente come dici tu, cioè il parroco si trova in condizioni. Ecco, e allora, scusami, non è evidente ai principi della Chiesa che conducono questo stile di vita che all'interno del loro impegno pastorale c'è gente che non sa dove sbattere la testa? È ovvio che è evidente. E allora vuol dire che se ne fotto. Ecco, infatti l'hai detto tu con questo editoriale stringato, ma sottoscrivo in pieno, se ne fottono, se ne fottono. C'è un minuto di tempo, Sara da Vicenza è gentilmente molto concisa. Molto grazie. Veloce. Grazie Sara. Salve, sono una cittadina del Veneto. Sì. E mi dispiace che Zaia non ci sia più, volevo ricordargli che da agosto del 2011 tutti i cittadini del Veneto pagano per ricetta 5 o 10 euro ogni qualvolta devono fare una prestazione specialistica oppure un esame del sangue, eccetera, eccetera. Quindi non è vero che non abbiamo i ticket. Mi dispiace che perché non verranno aumentati, forse. Lei fa bene a precisare, fa bene, la dobbiamo ringraziare perché così corredo l'informazione che esistono stati introdotti i ticket. Lui aveva detto non abbiamo la sovraniquota IRPEF, quella per la sanità, aveva detto questo testualmente. E poi non li aumenteremo, però Sara ha fatto benissimo a dircelo, perché è una testimonianza poi di chi ogni giorno, se capita, deve tirarli fuori questi euro. Insomma, posso dirti un pensiero a chi ha preso i voti e si dà da fare per chi ha problemi nella vita. Penso che loro saranno i più addolorati nell'apprendere che anche sotto la cura di Francesco si fa mercimonio schifoso. È così. Caro Oscar, ci vediamo domani. Certamente, continuate su Radio 24. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...